rimasti solo i vecchi e i cani. E quattro case bianche abbandonate. La mano del padrone ci spinge a settentrione, a settentrione a fare l'emigrante. Partono le tradotte per la guerra. La guerra santa di sopravvivenza. Caro, ci costa andare, ma è meglio che restare. Guardo i panni appesi a un sole che non serve ad asciugare la rabbia che c'ho dentro ed il sapore amaro di essere una bestia da lavoro. Io quando torno per Natale mi porto cioccolata e panettone. Poi parlerò con te e mi dovrai ascoltare di quanto è generoso il settentrione. Di sale, ubriacati di cose non strane, parliamo d'amore, di vino e di mare, e di treni, stazioni ed orari, carrozze binari.